Questo è tell, è dire. Se invece in termini narrativi io dicessi la portinaia guardava da dietro le tendine l'inquilino del terzo piano salire con una persona che non conosceva, sto più o meno dicendo la stessa cosa, ma nel contempo la sto mostrando la portinaia in azione che fa questo agito. E questo agito della portinaia mi serve a identificarmi, cioè sono io, lettore, che faccio quel passaggio di definizione. La portinaia è Pettegola, probabilmente, o è a tante altre cose, ma diciamo, e anche il fatto che non sia definito, cioè il fatto che la portinaia guardi qualcuno salire, la possibilità che sia Pettegola è una delle tante possibilità, fa parte dell'identità lettore-autore. Sono io, lettore, che comincio a stabilire un rapporto affettivo col personaggio, interpretandone i comportamenti. Questo è fondamentale, perché molto spesso, invece, quando noi scriviamo, e devo dire, questa è una regola aurea, ma non è una regola seguita da tutti gli autori, e infatti questo stabilisce, diciamo, la qualità o meno degli autori, più o meno letterari, diciamo che fa la differenza tra un autore che è capace di far identificare il lettore con sé e oppure che non lo fa identificare. L'altro esempio che avete lì è Giovanni è nervoso, oppure Giovanni si mordicchiava le unghie camminando avanti e indietro. Sembra una sfumatura da niente, in realtà è tutto ciò che fa la differenza. C'è un esempio invece a monte della fotocopia che parla di Chekhov e che in una lettera al fratello diceva che per fare letteratura non bisogna dire che la notte è illuminata dalla luna, ma bisognerebbe dire che un riflesso argentato illuminava un pezzo di vetro. E questo porterebbe o dovrebbe portare il lettore a stabilire da sé che è notte, che c'è una luna che si rifrange su quel pezzettino di vetro. Questo è fondamentale, altrimenti facciamo tell, e facendo tell facciamo qualcosa di diverso, facciamo autobiografia, biografia, spieghiamo, e nello spiegare allontaniamo l'attenzione del lettore, oppure gli rendiamo la vita così facile che il lettore ci sta dentro quella cosa, ma la sua identificazione è solo con la storia, non col personaggio. La letteratura si occupa dei personaggi principalmente, sono i personaggi quelli a cui noi ci affezioniamo e che ci rendono possibile l'identità comune, ok? Parallelamente a questa regola, quindi parliamo già di regole, il fatto già di parlare di regole ci dice qualcosa, ci dice che questa idea un po' vaga che abbiamo della letteratura molto spesso, ovvero di una manifestazione del talento, tale è vaga, ma i grandi autori questo talento che poi probabilmente avevano, ma che non era la principale motivazione che li muoveva, erano capaci di metterlo in pratica. L'esempio classico è l'autore romantico che è strafatto di qualunque sostanza, ubriaco, e dopo depravazioni di ogni genere si chiude in una torre d'avorio con la candelina, scrive un capolavoro e al mattino questo capolavoro finisce direttamente nelle antologie. Naturalmente questo autore è una specie di animaletto senza un'anima, senza cultura, che non ha letto niente e che ha espresso soltanto quello che aveva dentro. Non è vero, non esiste questa figura, ed è quella nell'immaginario che ci costringe molto spesso ad avere paura della pagina bianca, perché chiunque si comportasse così dopo tre righe non avrebbe più niente da dire, perché quello che abbiamo da dire è poco rispetto a quello che profondamente sentiamo e potrebbe uscire se lo stimolassimo. Quell'autore lì, ubriaco, fradicio, eccetera eccetera, con la candelina, nell'immaginario è un Lord Byron che sulla spiaggia di Amalfi faceva queste azioni. In realtà Lord Byron era un grandissimo studioso di classici greci e latini che traduceva, conosceva la letteratura medievale, aveva sperimentato tutti i tipi di scrittura e frequentava intellettuali dell'epoca coi quali esercitava la propria scrittura. Quindi secondariamente e parallelamente a quello che dicevamo prima, per fare un progetto letterario bisogna avere una cultura letteraria. Forse la prima delusione che potrebbe raggiungere i frequentatori di un laboratorio di scrittura è che senza leggere non si può scrivere. Per qualcuno è ovvio, non per tutti è ovvio. Senza leggere letteratura non si può scrivere letteratura, perché poi si può leggere tante altre cose. E quindi inevitabilmente è necessario leggere, è necessario avere una cultura tecnico-letteraria tale per cui quando noi scriviamo qualcosa sappiamo esattamente quali altri autori prima di noi hanno scritto in quel modo di quella cosa. Quindi il corso è un laboratorio che si basa sì sulla scrittura, ma che come fonte originale ha la mimesi, cioè proporvi degli autori fondativi dal punto di vista delle tecniche narrative da imitare o da su cui esercitarsi, naturalmente, per poi arrivare ad avere la propria forma narrativa. Cioè niente nasce da niente, nessuna forma d'arte nasce da se stessa, se non invece dalla imitazione di altri autori precedentemente. La scrittura è un po' ambigua da questo punto di vista, però se voi pensate all'arte e alla musica diventa più facile immaginarlo. Le accademie d'arte sono la riproduzione di opere fin quando tu non ottieni una capacità tecnica tale per poi produrre le tue. I conservatori non sono da meno, sono esercitazioni infinite sul solfeggio e sull'imitazione di altri autori fin quando poi tu arrivi ad avere la capacità di produrre una tua musica invece originale. Ma per originale non si intende qualcosa che nasce dal nulla, ma qualcosa che nasce da altri autori rielaborati. L'arte e la scrittura e la musica sono accomunate da questa forma di disciplina. In realtà parrebbe normale dire una cosa del genere. Un grafico che cosa fa? Un architetto che cosa fa? Studia gli altri architetti, stabilisce una relazione con questi architetti, li imita in parte e a volte li mescola in vario modo fino a produrre qualcosa che è frutto di questa interpretazione, e allora si diventa qualcosa di personale. È vero che ci sono degli autori fondativi che sono partiti facendo lo stesso processo e hanno ottenuto dei grandi successi innovativi, ma questo succede indipendentemente da noi, succede in certe epoche storiche, per certe congruenze particolari, e quindi anche i grandi autori che noi immaginiamo essere come dire, autarchici, che si sono seduti a un tavolo e hanno scritto delle opere meravigliose, non hanno esattamente usato questo metodo, hanno preso altri autori, li hanno rielaborati e hanno fatto della loro scrittura una forma di imitazione rielaborata. Questo è un grande lutto da fare quando si inizia un corso di scrittura, perché altrimenti spesso si va a fare un corso di scrittura nella speranza che ci vengano date quattro regoline base facili, per cui io poi continuo a lavorare come facevo prima applicando quelle regole. In realtà è fatica, come tutte le discipline, è fatica e va quindi coltivata attraverso la lettura e la riproposizione di queste letture. Noi poi nella seconda parte, vi lascerò con Francesco, faremo delle esercitazioni che partono da questo, cioè da queste schede che avete, in questo caso oggi due autori particolari che sono Agota Christoph e Thomas Bernhard, paradigmatici per questa questione dello show e del tell. Quindi partiamo dallo show del tell, abbiamo questi due autori che esemplificano il loro metodo di lavoro in questa struttura. Però faremo anche delle esercitazioni su delle fotografie, perché lo show è un modo di rappresentare la realtà senza spiegarla, dicevamo prima, ma facendola vedere. Allora una delle sfide è: prendete una foto, provate a descriverla come se doveste mostrarla a qualcuno che non la può vedere, ma non spiegandola, facendogliela vedere. Perché se io prendo la foto di un paesaggio e dico è un paesaggio triste, le piante sono più o meno spogliate, eccetera. No, io devo farlo vedere, devo fare una descrizione tale minuta al punto che chi lo legge abbia più o meno, in modi diversi dalla visione ovviamente, un'idea ben chiara di quell'immagine. Questo è mostrare. Dire sarebbe fare un riassunto. Avete sentito prima quando dicevo la portinaia pettegola? Frase molto breve. La portinaia guardava da dietro le tendine, lunga. Ecco, mostrare allunga il racconto, dire lo riassume. È naturale che noi tendiamo ad usare il dire. Siamo abituati a farlo nell'oralità, siamo abituati a farlo in altre discipline, anche nella scrittura tendiamo a fare questo. Ora, perché un racconto non diventi lungo 2000 pagine, dovremo scegliere allora cosa mostrare, non possiamo mostrare tutto, dovremo scegliere che cosa mostrare. La seconda pagina della vostra dispensa ha come titolo Trilogia della città di K di Agota Christoph. Agota Christophe è presentata come il prototipo assoluto del mostrare. Non so se qualcuno ha mai letto qualcosa di suo. Nella prima parte c'è un'introduzione al suo lavoro e a lei, e nella seconda ci sono delle citazioni tratte dalla trilogia stessa. Alcune sono in neretto, perché adesso andremo a stabilire quali caratteristiche hanno, altre meno. Quello che noi vi chiederemo è, banalmente, ma non così banalmente come sembra, di provare a prendere dei pezzi di questi testi della Christophe, leggerne una frase, riprodurla e da lì cominciare a scrivere su quell'impulso che quella frase vi ha dato, per esempio. Oppure addirittura prendere un pezzo intero della Christophe, riscriverlo con parole vostre, tenendone però la struttura. Questa si chiama fare delle gabbie, si chiamano gabbie, gabbie proprio perché sono vincolate da un altro testo dentro il quale noi dobbiamo inserirci e provare a riprodurlo con quella modalità. Qual è la caratteristica dello show assoluto della Christophe? Se voi leggete la prima delle citazioni, dovrebbe essere l'incipit, e dice, nell'altra pagina, quella successiva, ecco, e dice arriviamo dalla grande città, eccetera, eccetera. A un certo punto l'autrice dice, mamma ha gli occhi arrossati, ok? Innanzitutto tutto quel pezzo è show, non c'è nessun commento. Che cos'è lo show, il tell? Aspettate che ne rubo, tieni un secondo, ne rubo una così, e lo leggo in modo clamoroso. Perché? Arriviamo dalla grande città, abbiamo viaggiato tutta la notte, nostra madre ha gli occhi arrossati, porta una grossa scatola di cartone e noi due una piccola valigia a testa con i nostri vestiti, più il grosso dizionario di nostro padre che ci passiamo quando abbiamo le braccia stanche. Come vedete è evidenziato nostra madre ha gli occhi arrossati perché quello è un modo di mostrare senza dire cosa avrebbe potuto dire. Nostra madre ha pianto, nostra madre è triste, nostra madre è affaticata. Dice nostra madre ha gli occhi arrossati, cioè dice qualcosa ma lo mostra, non lo dice, lo mostra. Era facile lì cadere nella trappola del tell, no? In fondo vuole dimostrare che questa donna è affaticata, è triste, ma non lo dice. E noi nel leggere questo pezzettino ci identifichiamo maggiormente, cioè cominciamo a pensare perché ha gli occhi arrossati? E già questa domanda piccola che ci facciamo ci sprofonda nel romanzo, cioè entriamo in relazione col romanzo, partecipiamo al romanzo. Ci vorrà un po' di tempo per cogliere la differenza tra show e tell. La differenza tra show e tell potrebbe essere ben dimostrata da una sceneggiatura. Le sceneggiature noi non le tratteremo, però le sceneggiature servono alla truppa, al regista, per girare un film, e sono indicazioni molto precise di azione, perché il regista non può interpretare, il regista deve rappresentare, a interpretare poi ci penseranno gli attori. Quindi in una sceneggiatura è scritto appunto Giovanni cammina in un viale, Giovanni si morde le unghie, non c'era scritto Giovanni è disperato e Giovanni è molto triste, perché il regista non potrebbe girare quella scena facilmente. Se sulla sceneggiatura ci fosse scritto Giovanni è molto triste, dovrebbe essere il regista a pensare al modo con cui l'attore dovrebbe dimostrare la sua tristezza. E quindi la sceneggiatura non sarebbe compiuta, perché rimanderebbe a un'interpretazione del regista. E invece ci sarà scritto Giovanni camminava avanti e indietro. Se voi pensate a tutto ciò che, come definizione di mostrare e dire, ha una regola molto semplice, potrebbe aiutarvi. Quello che sto leggendo, se io lo dessi in mano a un regista, lui lo potrebbe girare così com'è o dovrebbe spiegarselo? Se guardiamo questo testo della Christophe, dice arriviamo dalla grande città, lo possiamo mostrare in un film? Sì. Abbiamo viaggiato tutta la notte? Sì, un po' più difficoltosamente, ma con dei flashback potremmo farlo vedere. Nostra madre ha gli occhi arrossati, possiamo mostrarlo. Porta una grossa scatola di cartone, sono tutte azioni visibili. E noi due una piccola valigia a testa con i nostri vestiti, più il grosso dizionario di nostro padre, che ci passiamo quando abbiamo le braccia stanche. Lo possiamo far vedere questa azione del passare. Quindi, per capire se qualcosa è visivo o qualcosa invece è spiegato e quindi da immaginare e da interpretare in modo, diciamo, indotto dall'autore, una delle regole è questa. Farete un po' di difficoltà all'inizio, non è ovvio, però magari vi invito a leggere dei libri che avete già letto, che avete a casa, e provare a seguire questa regola. Non è l'unica della letteratura, ne avremo altre. Prima accennavamo in presenza di Sofia a Carrère, per esempio. Carrère supera questa regola con un'altra regola, che è quella dell'inaffidabilità. Questo è un racconto in terza, anche se poi è raccontato da due persone diverse. Carrère racconta in prima, si mette in prima persona nel racconto, e lì c'è un altro modo per mostrare invece che dire, ed è l'inaffidabilità dell'autore. Tutto ciò che è raccontato in prima in genere è inaffidabile. Che cosa intende per inaffidabile? Non che racconta per forza bugie, ma che racconta dal punto di vista esclusivo del narratore. E quindi anche in quel caso abbiamo un personaggio. L'obiettivo primario, come avrete capito, è costruire personaggi e non autori che se la raccontano. Qual è il grande difetto dell'esordiente in genere? Raccontare di sé, ma come? In modo personale. Sono molto triste, il fidanzato mi ha lasciato, la mamma non mi vuole bene. Bene, direi, da un certo punto di vista, ma assolutamente... Ciao! Facciamo dopo un breve riassuntino. No, figurati. Sono quelle cose che se voi leggete vi annoiano. Adesso più o meno potremmo anche poi accettare l'idea che ognuno si fa annoiare da quello che vuole, che ci sono invece libri più facili che ci piacciono. Ma la differenza è sostanzialmente questa, tra raccontare una storia e far identificare il lettore con quella storia e invece spiegare degli stati d'animo, che è un'altra cosa. O fare autobiografia. Noi diciamo sempre agli studenti che, soprattutto quando arrivano molto giovani e molto speranzosi e pensano giustamente di avere delle vite interessanti, che il solo raccontarle possa dimostrare interesse negli altri, che purtroppo le nostre vite, tranne forse quelle di Jack London o di Bukowski, perché hanno fatto dei numeri, non interessano in sé per sé al lettore, interessano soltanto se noi gli riusciamo a far partecipare, perché altrimenti è una dimostrazione egoica del nostro mondo interiore. Quindi è un diario alla fine, no? Ti racconto cosa mi è successo a me. A me interessa relativamente, a me interessa se io mi identifico in quello che ti è successo, se sento che può capitare anche a me, o che è capitato anche a me, o che semplicemente mi ha preoccupato e che quindi ci ho riflettuto su. E allora io sono dentro quella scena. Questo ha fatto del romanzo quello che è. Il romanzo è una disciplina conoscitiva del mondo, altrimenti sarebbe stata la riproduzione di altre tecniche molto efficaci. Uno dei motivi per cui la letteratura contemporanea, italiana in particolare, è in grossa difficoltà, è perché non usando tanto questo metodo, non più come si è fatto fino al Novecento, finisce con andare a competere con altre forme molto più efficaci di espressione. Cioè, se io devo spiegare una cosa e poi guardo un film, il film vince su questa cosa perché me la fa vedere inevitabilmente. I grandi romanzi difficilmente sono ben rappresentati invece nel cinema, perché il grande romanzo ha il personaggio e lo spessore del personaggio nella lingua, e quindi ha la sua forza a prescindere. L'obiettivo è costruire autori che sappiano giocare nello specifico del romanzo e usarne tutti gli strumenti che sono la costruzione del personaggio. Quando noi leggiamo un buon romanzo o un non buon romanzo, dovremmo chiederci nel nostro giudizio: non è buono perché io non sento che c'è un personaggio lì dentro, o non è buono perché non mi interessa la storia? Anche se mi ci sono identificato, o meglio, mi ci riesco a identificare in questa storia o no? Se non mi ci riesco, allora vuol dire che probabilmente sta raccontando qualcosa di personale che non riesce a diventare soggetto, protagonista. Poi, questa è la Christoph, dopo appunto l'obiettivo è provare a copiarla facendo qualcosa di personale. Tutto l'obiettivo del corso sarà provare a trovare alcuni autori importanti che hanno tracciato dei momenti tecnici della scrittura importanti, non sono tantissimi poi alla fine, perché gli epigoni sono di più di quelli che si sono inventati le cose, però riuscire in qualche modo a capirne la struttura, e l'imitazione è il modo principale. Ci avete mai pensato che l'imitazione è tutto? E la relazione è tutto? Noi siamo in relazione col mondo e apprendiamo imitando ciò che ci interessa, ciò che ci piace. Vogliamo essere quella cosa lì. La scrittura non è da meno e non cambia. Non può essere. E poi abbinandolo al discorso del talento e all'idealizzazione del talento, la scrittura non è, come altre discipline non sono, puro talento, è semplicemente la scoperta di alcune tecniche che possono a quel punto rivelare un talento, ma finché non vengono espresse noi non lo sappiamo se esiste un talento o no. I grandi autori non si sono seduti a un foglio bianco e hanno cominciato a scrivere convulsamente, sono usciti capolavori. I grandi autori hanno letto tantissimo, hanno studiato, hanno fatto progetti, hanno imitato, hanno copiato, hanno rifatto fino a farlo diventare loro. A me questa cosa, quando l'ho scoperta, mi dava molta serenità, in realtà. Sembra una cosa deludente, in realtà invece è molto pacificante, perché allora vuol dire che quando io entravo nelle librerie, dicevo, vedevo tutti questi libri, dicevo, ma come cazzo li hanno scritti questi libri? Cioè, no, addirittura il librone così dice, tu immaginavi che questi mettessero a scrivere da pagina 1 a pagina 200 senza staccare la penna in un momento convulso di grande identità personale? No. Innanzitutto i libri non vengono quasi mai scritti in un ordine lineare, ma vengono scritti per blocchi, dopo aver costruito i personaggi. Poi vengono montati, vengono rivisti. Altra domanda legittima da farsi è perché mai dovrebbero impiegarci anni a scrivere dei romanzi, gli autori, se invece si scrivessero in termini lineari. Se tu ti metti a scrivere continuativamente per qualche giorno, in un mese 150 pagine le hai scritte. Se il problema fosse solo quello di scrivere, ma il problema non è soltanto quello di scrivere, il problema è costruire un progetto, avere dei riferimenti letterari da cui prendere e poi cercare di imitarli per riprodurne la propria scrittura, continuando a modificarla, a rivederla in continuazione. Quasi tutto ciò che c'è prima dello scrivere, in realtà. Sì. Sì, fatto 10 di una linea immaginaria, io direi che 4 è il progetto, 4 è la revisione, cioè quindi la rielaborazione del testo, e 2 è la scrittura. Scrivere non è così complesso come può sembrare se io ho un progetto, se ho degli autori di riferimento, se parto da dei testi, dalle immagini, da delle suggestioni che ho e provo a riprodurle. Allora quello che ho all'interno si svilupperà molto più efficacemente. Noi abbiamo un mondo interno molto sviluppato, ma a livello razionale è molto bloccato. Quindi quando appunto ti metti davanti a una pagina bianca, hai un mondo interiore molto intenso che non riesce a esprimersi compiutamente. Si esprimerà compiutamente nel momento in cui, per esempio, leggerò delle pagine di autori a me affini che evocheranno in me delle visioni che io proverò a riprodurre in modo il più personale possibile, ma attraverso quello stimolo. Ripeto, se noi pensassimo all'arte ci sembrerebbe più facile. La storia dell'arte è raccontata per scuole e per ascendenze. Nessuno si stupisce se la bottega del Verrocchio ha dato vita a una serie di autori meravigliosi come Raffaello e Leonardo, e guardando, o il Botticelli, guardando quei quadri, stabilissero delle tecniche che il Verrocchio usava e che riportava in questi altri autori, no? Però se invece noi dovessimo fare la stessa cosa con la scrittura, ci sembrerebbe un po' più anomalo. I musicisti, quando iniziano a suonare, fanno dei riff, fanno degli standard, riproducono momenti musicali di altri e poi trovano la loro musica dopo aver riprodotto questi momenti. La scrittura non è diversa, solo che è circondata da un'aura molto più magica, non so dirvi ben perché, forse perché era la forma d'arte più espressiva dall'Ottocento, dal Romanticismo fino al Novecento, ed è stata mitizzata anche la figura dell'autore. Probabilmente è questo, ma noi ci stupiamo nel pensare che un'opera nasca appunto dall'imitazione. Quindi l'idea è quella di produrre. Effetti di questa cosa su di voi? Delusivi? O A me dava sicurezza, perché dicevo, beh, allora non è una questione di talento. Poi dice, ho il talento, oddio, e se non ce l'ho? Cazzo. E no, invece dice, non è il talento. Io conosco autori di non eccesso talento, ma che fanno gli autori. E conosco persone di talenti mostruosi che non fanno niente. Perché senza invece la progettualità tu hai un talento che può restare inespresso. Se poi invece dovessimo incontrare, li incontriamo autori di talento vero, che però hanno fatto tutto il processo di fatica per costruire il progetto, e in più hanno anche talento, ovviamente questi diventano autori importanti di riferimento. Attenzione, per talento io intendo semplicemente una cosa, un mondo interiore significativo e che interessi al mondo. Esperienze di vita tali per cui io posso, e vita non perché appunto sono Jack London che è andato nel, vita interiore intendo dire, perché il romanzo contemporaneo parla di mondi interiori, non necessariamente di vicende rocambolesche. E allora questo dovrebbe appunto tranquillizzare e pensare, il talento è un problema successivo, io potrò comunque scrivere, raccontare delle storie e costruire dei personaggi. Quello che riuscirò a fare è un problema relativo per me al momento, se mi interessa raccontare la mia storia, poi il valore di questa storia verrà giudicato in seguito, intanto io però la racconto. Mentre invece non fare questo processo di adesione ad altri autori, di mimesi, ci costringerebbe a restare davanti alla pagina bianca con moltissime perplessità e poi probabilmente a scrivere delle banalità sequenziali, semplicemente storytellari. Tizio va là, Tizio si muove qua, Tizio fa questo, ma se noi non conosciamo Tizio non lo sentiamo profondamente dentro di noi, non riusciamo a evocare nessun sentimento di empatia con quel personaggio. Dopo la signora Christoph, io vi volevo parlare invece di quest'altro signore che si chiama Thomas Bernhard, che fa qualcosa di apparentemente opposto ma con lo stesso obiettivo. Thomas Bernhard, come vedrete poi nelle pagine successive con le citazioni, che fa? Dice un sacco di cose, le dice proprio. Cioè dice che se è triste, è arrabbiato, che quello è un deficiente, che quell'altro non si può vedere. Ma che cosa fa nel dirlo? Lo fa dire un personaggio. Vedete tutti quei inretti dei dichiarativi? Pensai. Ancora una volta l'obiettivo è far parlare un personaggio. Dicevamo prima, Giovanni è nervoso. Giovanni è nervoso, lo sto spiegando. Giovanni cammina avanti e indietro mordicchiandosi le unghie. Show. Ma un altro modo per rappresentare un personaggio è dire, ma farlo dire al personaggio. E questo è il modo di Bernhard. Cioè a dire, per esempio, Giovanni è nervoso, diceva Antonio. Perché cambia la cosa? Perché se io dico Giovanni nervoso sto dicendo io che lo sto scrivendo. Se invece io dico Giovanni nervoso diceva Antonio, lo sta dicendo Antonio, che è un personaggio del romanzo. E quindi stiamo parlando ancora di personaggi. Come vedete l'obiettivo è far credere al lettore che quello che sta parlando è un personaggio e non sono io, io autore. Non lo sto indottrinando, spiegandogli le cose, lo sto affabulando, facendolo partecipare al racconto. Sono due cose diverse. Che poi lo show and tell anche nella vita, se ci pensate, è più o meno efficace, no? Forme educative. Ti faccio vedere una cosa, te la spiego e basta. Agisco di conseguenza e quindi do l'esempio oppure parlo e non lo faccio. L'identità del lettore si forma in questo modo. Il lettore, un'altra cosa interessante, il lettore è una figura molto diffusa perché i lettori leggono i libri per vedere come vanno a finire, per capire quanto sono affascinanti questi libri. Lo scrittore non legge così i libri degli altri, non li legge da lettore, li legge da scrittore. Questo è facilmente anche qui riproducibile facendo esempi con altri mondi. Io se sono un pittore vado a vedere una mostra, non mi faccio sorprendere dalle forme o dalla bellezza o dal sorriso della Gioconda. Io voglio guardare come è stato dipinto, che colori sono stati usati, che densità c'è, che prospettiva, no? La parte tecnica. Lo scrittore quando legge i libri li legge in questo modo qua. Cioè, comincia a guardare, dice, è in prima persona o in terza? È il personaggio che parla o sembra che sia l'autore? Sta usando dei dichiarativi? Usa il presente? usa il passato. I dialoghi come li fa? Ci mette le virgolette o non ce li mette? Destruttura. E quindi un altro degli obiettivi del laboratorio è fare in modo che voi sappiate destrutturare un testo e guardarlo dal punto di vista tecnico. Questo è vero, rispondo già a un piccolo dubbio che potrebbe venirvi, ma dopo così mi rovino la lettura, cioè non leggo più per il piacere di leggere. Beh sì, sappiate che un autore non legge più con l'occhio del lettore puro che vuol vedere come va a finire un testo. Io per esempio spesso, forse anche Francesco, noi leggiamo delle parti di libri, soprattutto se li abbiamo già letti e ci piacciono, per capire come sono scritti, per imitarli, per capire se ci interessano davvero, per vedere se è possibile farne uso per produrre dei nostri testi. È un po' diverso quindi la lettura dell'autore. La lettura dell'autore può prevedere di non finirlo un libro, di iniziare dalla fine, di leggerlo in mezzo, di non farsi prendere dalla paranoia, oddio devo finire quel libro, è lì da 3 mesi sul comodino, non riesco a finirlo e non leggo altri nel frattempo perché devo finire quello prima. Questo è un problema che non riguarda l'autore, perché l'autore ha bisogno di esempi continui, di tecniche narrative per riuscire a fare i suoi libri. Questa è una cosa che non vi ho messo, ma che se voi volete segnarvi in qualche modo molto semplice potrebbe aiutarvi. Anche a pennina qualcosa, insomma, su quei fogli. L'obiettivo di un romanziere è costruire un personaggio, abbiamo detto. Personaggio, come si costruisce con delle regole un personaggio? Hai bisogno di una penna? Forse noi ne abbiamo. Tu, lì c'è, eccola lì. Ho una matita. No, mi pare che l'abbiate tutti, forse. Tu hai il computer, te lo puoi segnare. Allora, ci sono 4 modi fondamentalmente per far sì che ciò che noi scriviamo sia il racconto di un personaggio. Il primo, il più diffuso, conosciuto, è il dialogo diretto. I dialoghi diretti sono tutti mostrare, perché è il personaggio che sta parlando, quindi 2 punti, aperti le virgolette. Fra parentesi mettetevi un'altra cosa, il dialogo può anche non essere diretto, cioè può essere diretto ma libero, cioè a dire oggi alcuni autori, prima parlavamo della Rooney e altri, non usano più 2 punti e le virgolette, fanno parlare i personaggi semplicemente andando a capo, va bene, questa è una cosa piccola. Quindi prima regola per costruire un personaggio è farlo parlare. Certo, non possiamo far parlare probabilmente sempre i personaggi, dobbiamo avere anche altri metodi per farli sentire personaggi, e allora uno è questo qui della Christoph, mostrare. Mostrare è già un metodo per far sì che il lettore senta che chi sta parlando è un personaggio, perché mostra. Poi abbiamo il nostro amico Bernard, e allora questo qui lo chiameremo invece dire, ma in modo funzionale. Quello sopra è show, questo sotto è tell funzionale, chiamiamolo così. E come lo facciamo? Con i dichiarativi. I verbi dichiarativi in italiano sono una 40 circa, ma i più usati sono il dire, pensare, affermare, cioè a dire, dare parola al personaggio non col discorso diretto, ma indiretto. Stiamo sempre parlando di personaggi, eh? Cioè stiamo sempre dicendo che l'obiettivo è che sia il personaggio a parlare, e questi sono i metodi. Abbiamo fatti 3. Il quarto ne accennavamo prima parlando di Carrère, l'inaffidabile. L'inaffidabile è un altro modo di far parlare un personaggio. Attenzione, l'inaffidabile è un po' da interpretare. Un personaggio inaffidabile non è perché dice sciocchezze e basta. Un personaggio inaffidabile è perché è contraddittorio. So se avete letto La coscienza di Zeno, di Svevo, i romanzi di Volponi, La nausea di Sartre, sono personaggi inaffidabili, parlano in prima, l'inaffidabilità è in prima persona, mettetelo, prima persona, non può che essere in prima, e parlano del mondo soltanto dal loro punto di vista. Molte cose sono reali, molte cose noi le viviamo come reali, molte cose sono frutto del loro mondo. L'inaffidabilità spesso, che è quella anche un po' del gergale, è il modo di convincere con questa scrittura il lettore che quello che si sta dicendo è vero, ma è inaffidabile perché è in prima persona, quindi è vero? Sì, però accidente, è lui che lo pensa, è il prima, è la voce del personaggio. È la sua verità. È la sua verità. Esiste una quinta formula classicissima di modalità di costruire un personaggio con la tecnica di scrittura, che è l'indiretto libero. L'indiretto libero, per capirci, era il metodo usato fino ai primi del Novecento dalla grande letteratura classica, quindi per chi legge i classici non è un problema riconoscerla. Cioè, a un certo punto, Madame Bovary, i classici russi, Verga, fanno un passaggio epocale. Prima si scriveva con il narratore onnisciente. Il narratore onnisciente è questo signore che parla, Manzoni, Promessi sposi, narratore onnisciente. C'è un signore che è il Manzoni, che ce la spiega e ce la canta, no? Addirittura giudica i personaggi, a un certo punto dice che Renzo è un poveretto, che quell'altra è un'ingenua, ce lo dice proprio. Fino a lì si faceva così, fino a 1800. L'indiretto libero è quello di Madame Bovary, per capirci. Flaubert dice, Madame Bovary sono io. Che cosa voleva dire con questa cosa? Non certo che aveva fisionomia femminile Flaubert o altre cose del genere, semplicemente si stava dicendo che lui si è identificato in Madame Bovary e la faceva parlare non come avrebbe parlato lui se fosse stato il protagonista di quel racconto, cioè non si metteva a giudicare il personaggio, ma provava a mettersi nei panni di Madame Bovary. Cosa avrebbe detto Madame Bovary? Come si sarebbe comportata Madame Bovary? L'indiretto libero è quando un personaggio dice qualcosa e noi sentiamo che l'ha detto lui. Faremo degli esempi più consoni. Abbiamo quindi cinque punti, no? Abbiamo i cinque punti. Il dialogo diretto, il dialogo indiretto, inaffidabile, l'indiretto libero. Sono tutti modi per far sì che chi parla è il personaggio. Guardate, oggi stiamo dicendo tante cose perché sono un po' alla base. Sì? Il monologo interiore è il quinto, e quando il personaggio parla a se stesso compie tutta una serie di riflessioni interne che però in qualche modo parlano al lettore stesso, rivelando il suo vissuto, il suo esperienziato, i suoi sentimenti. È un modo per far parlare il personaggio senza esplicitare frasi o parole che dice in diretta a qualche altro personaggio. Che poi può scollinare nel flusso di coscienza, quando un monologo interiore particolarmente gergale, privo di punteggiatura, sgrammaticato, lì abbiamo un flusso di coscienza che adesso poi si può ritrovare in tanti tanti autori. Vedete che quando faremo gli esercizi, cioè quando guarderemo gli esercizi, gireremo molto su quelle cose che stiamo dicendo adesso, sono le basi che poi diventeranno spesso il ragionamento con cui analizzeremo i testi. Quindi dicevo, oggi ci stiamo dicendo tante cose, ma poi li continueremo a rivedere sempre queste alla fine nelle esercitazioni, quindi non preoccupatevi adesso se sono un po' teoriche piantate in aria. L'obiettivo per noi è già da oggi provare a farvi scrivere e dalle prossime volte guardare i testi scritti, applicando però questi metodi che non dovrebbero creare, all'inizio un po' d'ansietta viene lo stesso, ma non dovrebbero creare assolutamente quella paura della pagina bianca. Perché io vi chiederò, prendete un pezzo della Christopher e scrivetelo, prendete un pezzo di Bernard e scrivetelo, fate un monologo, fate un inaffidabile, parlate con altri autori che lo faranno. Ogni volta vi daremo degli autori che fanno quella cosa lì. E nell'imitare quegli autori, piano piano si apprenderà quella modalità di scrivere. Guardate che sono piene biografie di queste dichiarazioni degli autori. I grandi autori lo dicono espressamente questo. Solo che noi siamo più interessati a leggere i romanzi a volte che le parti tecniche, andare a sentire cosa raccontava Flaubert, di come scriveva, o Kafka, eccetera. Ma questa era la normalità. Cioè c'è un dietro le quinte della scrittura che noi vorremmo dimostrarvi. E quel dietro le quinte è quello che poi fa scrivere dei testi funzionali, no? quindi ci interessiamo a quello, partendo dal presupposto però che la scrittura non è una scienza esatta, e quindi poi tutte queste regole possono anche essere disattese in qualche modo, però avendole presente, sapendo che esistono, cioè io posso rinunciare a queste regole se riesco però sempre in quell'intento a mostrare un personaggio. Se non ce la faccio, posso rifarmi ancora queste regole e dire: perché non ce l'ho fatta? Perché non ho usato uno di questi stilemi, perché non ho tenuto conto di alcuni autori che hanno già fatto queste cose. L'obiettivo primario da vincere sarebbe che voi non vi opponiate all'idea di copiare all'inizio e di riprodurre dei testi, perché è un po' usurpante per qualcuno all'inizio, no? L'idea, no, cavoli, però copiare, no, non era quello che volevo fare, ma è un passaggio necessario. Ripeto, come fare il solfeggio prima di suonare la musica e come disegnare la modella prima di fare il grande quadro personale, cioè è il momento in cui io costituisco le basi di quello che voglio fare, lo elaboro, mi faccio una cassetta degli attrezzi. Noi vi daremo 6 o 7 autori, per il momento non sono tanti ma sono significativi, ma ognuno di voi dovrà piano piano, partendo da questi autori, leggendone altri, costituire la famosa cassetta degli attrezzi dell'autore, che sono gli autori di riferimento, quelli che ci piacciono e che vorremmo usare per riprodurre quello che vogliamo noi. Ci è piaciuto tanto un libro? Prendiamo dei pezzi di quel libro, proviamo a scriverli. Nello scrivere a un certo punto ci distacchiamo da quello che stai dicendo, perché probabilmente entriamo, se ci è piaciuto, in qualcosa anche di personale. E allora proviamo a raccontare non esattamente quello che dice lui, ma come lo dice lui. Però qualcosa di nostro. Da parte teorica adesso è un po' spiazzante. Adesso... Fra poco ci affidiamo. All'inizio ti sei persa l'idea che questo sia un laboratorio di mimesi, cioè dove prendiamo degli autori, vi proponiamo degli autori, vi chiediamo provate a copiarli, ma non autori a caso, perché sono degli autori che hanno usato delle tecniche narrative, un po' quelle che abbiamo riassunto adesso, in modo molto specifico. E imitandoli, provando a partire da loro, copiandoli, facendo delle modifiche piano piano, ma anche altri esercizi, poi ne farete uno con una fotografia per esempio da provare a riprodurre, giocheremo sul tema centrale della narrativa, della letteratura, che è mostrare, non dire. La prima, poi te la rileggi la prima, perché forse non c'eri quando... Ecco, lì il mostrare, non dire è la base da cui eravamo partiti, che la letteratura è mostrare, non dire, cioè non la portinaia pettegola, ma la portinaia guardava di nascosto dietro le tendine, bla bla bla bla bla. Perché l'obiettivo della letteratura è far identificare il lettore con la storia. Quindi se io te la spiego, tu l'accetti, ma non ti identifichi. Se io ti faccio vedere delle immagini, sei tu lettore a interpretarle. Cioè, non sono io a dirti che la portinaia pettegola, sei tu che, leggendo il fatto che lei guarda di nascosto dietro le tendine, deduci, arrivi a comprendere che tra le altre cose potrebbe essere pettegole. E questo è un po' l'obiettivo che ci vogliamo porre, come? Attraverso la mimesi, attraverso altri autori che ci insegnano, perché hanno saputo farlo bene, come evitare di sembrare che noi stiamo raccontando qualcosa di noi autori, e non di un personaggio. Ok? Allora, io vi devo salutare... Lascio in buone mani con Francesco, provate a fare questi esercizi. Poi la volta prossima, cioè ogni volta dalle volte prossime, partiremo da questi piccoli testi che avete scritto. Non dovrete scrivere racconti, non è che vi chiedo di scrivere un racconto, di scrivere dei brevi testi funzionali, degli incipini di 3-4 righe per piano piano capire questo meccanismo. Li vedremo insieme, ci sarà un proiettore, li guardiamo, facciamo delle osservazioni, e vi diamo altri autori di nuovo da imitare e via così, sommiamo questi autori, queste esercitazioni, e proviamo a costruire in questi 5 incontri una base significativa per provare a riuscire a poi, nel tempo, con calma, a raccontare qualcosa in più. L'ambizione nostra è di presentare questi 5 incontri adesso, e poi dovessero aver successo, fra virgolette, ripresentare in autunno un laboratorio più lungo, più articolato, con più autori, e se poi qualcuno di voi fosse interessato, partendo già da quello che avete fatto in questi piccoli incontri, quindi magari l'estate provare a scrivere qualcosa di più. Adesso però non esagerate, scrivete dei pezzettini, perché E l'obiettivo è accogliere queste indicazioni più che scrivere il racconto. Il racconto poi verrà quando avremo un po' chiarito questi meccanismi. Se scegliete la stessa foto è anche meglio, perché poi si vedono due risultati diversi per la stessa foto ed è interessante. Però ce ne sono anche talmente tante che sarebbe veramente una coincidenza particolare. Quindi niente, se avete l'accesso, scegliete la vostra foto e direi sono le 6:40, alle 7:10 suona il gong e possiamo leggere uno o due testi, insomma. Poi se ce la caviamo anche tre magari, io dico uno o due indicativamente. Ah, di battute dici? Allora, sì, va benissimo. No, però chiaramente minimo direi 1000 battute, potrebbe essere una soglia minima, diciamo 700-1000 battute come soglia minima. Diciamo 500, dai, per stare più bassi. 500 battute come soglia base. Scusami? Sì, esatto. Sì, tutti gli elementi visivi che trovi in una foto, cercare di riportarli nel testo. Come se dovessi spiegare la foto a qualcuno che non può vederla. Ci siamo? Abbiamo scritto tutti? Tutte? No, se servono altri due minutini... No. Andiamo. Chi è che si vuole lanciare? Nessuno. Allora, ecco, appunto, giusta domanda. Sarebbe buona cosa che ognuno leggesse il proprio testo. Prima cosa perché chiaramente lo conosce, lo ha scritto, lo ha redatto lui, quindi lo conosce meglio di chiunque e sa leggerlo indiscutibilmente meglio di chiunque altro. Secondo perché comunque si prende un po' di padronanza a leggere le proprie cose. Cioè è buona norma leggere sempre quello che si scrive, a parte il fatto che è una cosa che vi consiglio di fare anche a casa, quando scrivete rileggervi ad alta voce, perché più leggete ad alta voce un vostro testo, più c'entrate dentro e più anche acquisite comunque sicurezza verso quello che scrivete, vi rendete meglio conto di quello che funziona di più o di meno, le pause, dove magari inserire degli intercalari, anche se queste sono cose già più avanzate alla fine. Se voi siete a vostro agio a leggerlo, lo leggete voi. Se no posso anche leggerlo io, visto che è la prima lezione, immagino che ci sia un attimo di normale fisiologico imbarazzo, quindi sta a voi. Comunque tu non ci sei la prossima lezione, giusto? Per cui per forza di cose il tuo dobbiamo leggerlo. Quando te la senti? Oh, posso anche leggerlo io. Cioè, no, li leggiamo tutti, chiaramente, cioè, anche per creare magari un confronto, se vi va. Vuoi che lo leggo io? Ok. Perché? Sì. Ah. Vabbè, comunque... Sì, esatto, la domanda... Che foto hai scelto? Beh sì, oddio, potremmo anche non farla vedere in effetti, e poi la vedete dopo che il testo è stato letto, sì, e così vi concentrate su magari delle cose che non sono state raccontate, dei dettagli visivi che non sono stati messi. Sì, l'ho scelta io, per cui... Allora, la foto è datata. La mancanza di colori rende complesso identificare il luogo. è una sorta di non luogo in un tempo collocabile indicativamente a fine anni 90, a giudicare dal modello di roulotte che si intravede alle spalle dei due bambini protagonisti della scena. In uno spazio aperto, sotto la luce del giorno, si possono individuare i segni di un contesto sociale povero, di miseria. Un gallo, un edificio fatiscente, uno stendiabiti poco stabile. Questi elementi di povertà sono in contrasto con l'eleganza ostentata, probabilmente dai genitori e non dai diretti interessati, dei bambini in primo piano. Hanno un'età compresa tra i 9 e i 10 anni. Entrambi indossano fieramente degli abiti eleganti da adulti, in contrasto con la loro giovane età e con il contesto frugale. Il bambino più alto, sulla destra, fra gli occhi puntati sull'obiettivo, ha gli occhi puntati sull'obiettivo e trasmette una sicurezza che non appartiene alla sua età. L'altro è più piccolo, più corrucciato e meno convinto. Un dettaglio molto curioso, che in realtà rivela l'estrema coerenza tra i personaggi ed il contesto, è la dimensione spropositata delle scarpe dei bambini, comprate per l'occasione, appositamente di almeno 4 taglie più grandi, perché possano durare nel tempo ed eventualmente essere riutilizzate in altri contesti formali, o forse ereditate dal padre o dai fratelli più grandi. Gli unici elementi di vegetazione presenti nella scena sono un albero, che si intravede in lontananza, e fiori, probabilmente finti all'occhiello delle giacche dei bambini. Ok, allora, intanto sì, farei passare il PC in modo che le persone vedano la foto. Sei stata precisa nei dettagli, perché lo spazio aperto, la luce del giorno, l'edificio fatiscente, è giusto, l'esercizio è proprio questo, anche un mero elenco tecnico, freddo, quasi distaccato, però aiuta a disporre sulla pagina tutti gli elementi che noi vediamo e che poi possiamo comunque prendere e inserire in un testo già più narrativo, descrittivo, per cui l'esercizio è riuscito. La mia attenzione è caduta su un contesto sociale povero. Cioè, ecco, povero già da una notazione molto soggettiva comunque. Quello che è povero per te magari è ricco per qualcun altro. Stessa cosa chiaramente vale per miseria. Già dire comunque che c'è un gallo, c'è un edificio fatiscente, c'è uno stendiabiti poco stabile, quindi uno fa 2 più 2, pensa che è uno stendiabiti magari datato, vecchio, arrugginito. Già questi elementi comunque ti riconducono a una frugalità, a un contesto appunto non chiaramente di lusso. Per cui, per esempio, qui di troppo c'è povero, di miseria. Quindi ecco, il consiglio sicuramente è non dare mai un giudizio di valore, perché è proprio quello che ti distoglie dagli elementi presenti nella foto e visivi. Ecco, poi anche il fatto, io ho scelto delle foto in bianco e nero apposta perché magari uno può anche vederci dei colori, puoi tirare a indovinare sui colori delle foto. Comunque... va bene, anche i bambini ci sta. Se tu non sai l'età precisa, allora dire un'età compresa fra i 9 e i 10 anni è azzeccato. Di questo testo sicuramente io trovo interessante il modo in cui comunque... cioè il fatto che tu abbia usato le 4 taglie più grandi per restituire effettivamente un contesto anche qui di... riutilizzo e quindi di minima spesa, che comunque ti restituisce una certa un'appartenenza di questo luogo a un contesto non diciamo socialmente ricco, ecco. Va bene, grazie mille. E qua c'è la fai pure tu, farei passare per mostrare la foto a tutti. Che la foto adesso non l'ho neanche aperta, però magari c'erano altri elementi che potevano rientrare nel testo. Posso vedere anche un attimo? Grazie. Ok, sì, questa foto è stupenda comunque. Ecco, per esempio, nominare, già dire che sono in un simil parcheggio ghiaioso, per esempio, è un dettaglio in più. Scusami. Potresti aprire il testo, scusami. Sì, qui di altri elementi c'erano sicuramente la ghiaia, poi vabbè, non è una caccia al tesoro, per cui la ghiaia, le macchine parcheggiate, però fondamentalmente sono state prese tutte le cose della foto, quindi ce l'hai fatta, insomma. Avanti il prossimo, se no scelgo io come alle scuole medie. Vai, vuoi leggere tu? No, io sono più felice se lo leggi tu. Bene, ci trovo anche molto estro, cioè ci hai messo comunque anche una certa interpretazione negli elementi della foto, e un po', cioè, per ammazzare il tempo, mentre voi scrivevate, mi sono detto, provo anch'io a fare questo esercizio comunque. Casualità vuole che abbia scelto proprio la foto anch'io di Lucio Dalla. Se vuoi delle... È Lucio Dalla. Non so se avete visto la foto. Ok, l'uomo, sì. L'ho scritto anch'io così un po' per... Se vuoi lo leggo così... confrontiamo, perché tu ti sei lasciato molto andare, mentre io ho cercato proprio di fare l'esercizio analitico freddo, quasi da reportage, ed è venuto infatti molto molto più asciutto del tuo, cioè più, sì, come se fosse la didascalia praticamente. Su un tavolino in legno all'aperto sono poggiati una caraffa da mezzo litro di vino rosso, un bicchiere mezzo pieno di vino e il mio amico Lucio. Lucio, già, io mi sono permesso anche delle... Lucio veste in camicia bianca e tiene la bocca affondata tra le braccia, incrociate tra loro a formare una rapida e morbida alternativa a un cuscino. Del viso di Lucio si scorgono solo il grosso naso a tubero, gli occhi castani, appesantiti da due grosse borse che gli scavano le palpebre, e i capelli biondi, unti e schiacciati come se si fosse appena tolto un berretto, e pettinate alla bella e meglio per coprire una preoccupante stempiatura in stato avanzato. Al polso sinistro porta un orologio d'oro. Alle sue spalle, tre signori attempati discutono tra loro e ammirano una scintillante macchina rossa parcheggiata di fronte al plateatico. Io qui mi sono permesso due cose che mi sono immaginato: la macchina rossa, che non si può dire fosse rossa, e l'orologio d'oro. Già comunque dire, ecco, per esempio, al polso sinistro porta un orologio d'oro anziché porta un orologio costoso, già questa, per dire, è una tecnica di show don't tell di cui abbiamo parlato oggi, cioè anziché dare una connotazione di valore, quindi un orologio costoso, dici un orologio d'oro. Comunque, per tornare al tuo testo, bene, perché hai preso tutti gli elementi visivi della foto, però ci hai anche comunque costruito un po' intorno, che è la cosa che vi invito a fare per la prossima lezione, cioè prendete pure questi testi che avete scritto oggi, rielaborateli, costruiteci una sequenza magari seguendo le regole che ci siamo detti oggi sullo show don't tell, prendendo magari, estrapolando delle parti, altre porzioni di testi, che sia di Thomas Bernhard o di Agatha Christoph, e montateci sopra delle scene che poi noi comunque la prossima volta andremo a leggere e a destrutturare, come dicevamo oggi. Non so se qualcun altro vuole, abbiamo ancora del tempo in realtà. 5 minuti. Chi si butta? Ah, Allora ti sei scavato la fossa. Vai. Vai, vai. No, no, ci sta, ci sta. Direi che hai preso l'esercizio. Io forse ho capito la foto a cui ti riferisci, quella del gatto che corre nella calle, cioè nel, sì, a Venezia. Sì, sì, penso che sia a Venezia. Per restituire ancora di più la dinamicità della foto, quindi no, io forse non avrei parlato di veloce, ma mi sarei proprio concentrato sul movimento, sul fatto che... scusami. Sì, sì, no. No, sì, ok. No, no, comunque... direi anche qui... ce l'hai, cioè hai preso tutti i dettagli, tutti gli elementi della foto. Come ti dicevo, io piuttosto che dire veloce, cioè solo mi sarei riferito solo a dove, come sono poggiate le zampe. Quindi le zampe anteriori sono alzate, delle posteriori solo una è a terra. Già questo ti riporta al fatto che il gatto si sta muovendo, sta correndo, e quindi è in dinamicità come... però per il resto ci sta. Poi ovviamente avere i testi proiettati è più facile sia per voi che per noi di vedere tutto in uno sguardo d'insieme, però insomma direi che ci siamo. E niente, io vi ringrazio tantissimo per essere venuti. Non so, io posso chiedervi magari di lasciarmi un vostro contatto per creare un gruppo WhatsApp, che così tutte le comunicazioni ce le lasciamo lì. La prossima volta scriviamo questi e li leggiamo. Sì, esatto. La prossima volta proiettiamo i testi che abbiamo scritto adesso e poi voi comunque siete liberi di sperimentare, scrivere anche altri, anche montare altre parti che poi comunque andremo a rivedere di volta in volta. Però intanto sì, concentriamoci su questo esercizio che abbiamo fatto.